Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Ora, uscito Mauro Mortara, che gli aveva cagionato quella improvvisa commozione con il ricordo della morte eroica del padre, Giulio Auriti, di fronte al cugino che lo guardava turbato, in attesa ansiosa e benigna, restò per un pezzo come smarrito, in preda a un orgasmo crudele. Contrasse tutto il volto nella rabbia del cordoglio e, stringendo le mani intrecciate fin quasi a spezzarsi le dita, «Ho bisogno di te, Lando», disse. «È per me un momento terribile, da cui solamente tu puoi liberarmi, ma te ne prevengo, con un grande sacrificio anche da parte tua, morale e materiale». Lando, confuso, perplesso, soffrendo alla vista del cugino così agitato e presentendo anche dalle parole di lui la gravità di ciò che gli avrebbe chiesto, mormorò, aprendo le braccia: «Parla, tutto quello che posso». «Ah no!» troncò subito Giulio, urtato dalla frase comune. È difficile tanto per me, quanto per te, sai. Ma devi pensare che la mia vita, Lando, la vita di mia madre, l'onore nostro, sono nelle tue mani, ecco. Pensa a questo, e allora forse, spero, troverai la forza di compiere il sacrificio che ti domando». «Tu mi spaventi», esclamò Lando. «Parla. E che t'è accaduto?» Giulio tornò a stringersi le mani, convulsamente. Se le batté più volte, così strette sulla bocca, tenendo gli occhi serrati. Le vene gonfie della fronte contratta mostravano lo sforzo atroce che faceva su se stesso. «Se dico tutto», scattò smaniando, «mi darai aiuto?» «Ma perché no?» domandò Lando con pena. «Ma che c'è? E se non so di che si tratta?» «De me», rispose pronto Giulio. «Pensa che si tratta di me soltanto, o piuttosto di mia madre. Tieni presente mia madre e tutte le sciagure della mia famiglia. Tu hai rispetto e affezione per mia madre, non è vero?» «Ma sì, lo sai», affermò Lando con sincero interessamento. «Non mi tener così sospeso, per carità. Aspetta. Scongiurò Lauriti, come se non sapesse staccarsi da quel rivo di tenerezza nella maritudine in cui affogava. «Per noi, per me è tutto, l'orgoglio suo, il suo sentimento, per cui, senza lagnarci mai, ci siamo ridotti così. Non so proprio come dirti, ma noi non abbiamo altro, non abbiamo mai avuto altro che questo orgoglio. E ora, «Calmate, Giulio», lo esortò di nuovo Lando con un moto di impazienza. «Io non comprendo. Hai bisogno di me? Te, tua madre?» «Io debbo impedire che ne muoia», gridò Giulio, «a qualunque costo. E tu devi aiutarmi, Lando. E per aiutarmi devi fare il sacrificio di vincere ogni risentimento, ogni ragione d'odio verso un uomo che è la causa di tutto questo fine, e che io detesto e maledico come te e vorrei morto con la stessa tortura che infligge ora a noi». Lando si irrigidì a un tratto, aggrottò le ciglia. «Il Selmi?» domandò. «Roberto? Col Selmi?» Giulio crollò più volte il capo, poi, in breve, concitatamente, espose la situazione del fratello e quel che si doveva fare per salvarlo, tacendo del colloquio avuto la sera avanti con Sua Eccellenza il ministro D'Atri. Ma Lando, già prevenuto, col pensiero fisso in un sol punto dalle parole affannose del cugino, non comprese altro in prima che salvare così Roberto voleva dire salvare anche il Selmi, e che la salvezza di questo poteva ancora dipendere da quella del cugino. Guardò Giulio negli occhi, quasi ora soltanto lo vedesse davanti a sé. «E come?» esclamò stupito. «Tu vieni da me, Giulio, per questo. Proprio da me. Guarda, guarda Giulio, rispondi a me. È colpevole, Roberto. Lo credi tu colpevole? Colpevole o non colpevole, rispose Giulio scrollandosi. Non si tratta di questo. È compromesso. Ma può difendersi, per Dio, ribatté subito Lando. Grazie, lo so. Ma io devo impedire che sia accusato, che sia tratto in arresto. Ma non lo capisci, spiegò Lauriti. Lo so che può difendersi. E se non vorrà difendersi lui? Ecco, benissimo, approvò Lando. Anche io con te. Ma no, grazie, ricusò di nuovo e con sdegno Giulio. Aiuto de parole, grazie. E basto io solo. Non c'era bisogno che venissi da te. Scusa, disse Lando risentito. L'aiuto onesto, la difesa vera, onorevole, è soltanto questa. Pagare è complicità. Roberto deve parlare. Non rendersi complice del Selmi, tacendo o pagando per lui. E tu vuoi dunque, domandò Giulio, che egli subisca l'ignominia dell'arresto e del carcere quando io posso ancora risparmiargliela? Col denaro, col denaro, col denaro, ripeté Giulio. Onestà, disonestà, ma che cosa vuoi mettere adesso? Basta a me saperlo onesto. Ma chi lo crederebbe più tale domani, se oggi fosse arrestato? Chi crede più alle difese di chi è stato in carcere? Lando, per carità, stiamo all'esperienza. Guarda soltanto a Roberto. Tu, e bada bene, ora mi neghi l'aiuto non per altro, ma perché vuoi far Roberto strumento della tua vendetta. No, questo no, negò energicamente Lando. Ma non posso farmi io strumento della salvezza del Selmi, lo capisci? Tu mi infliggi un supplizio disumano. Io non posso e non devo subirlo. Per Roberto, tutto. Ma se Roberto è coinvolto col Selmi e il mio aiuto può giovare a costui, no. Io non posso dartelo. E tu non puoi chiedermelo. Giulio Auriti rimase un pezzo in silenzio, assorto, cupamente. Dunque, no? Disse poi, levando il capo e guardando negli occhi il cugino. A questa domanda categorica, Lando, compreso di profonda pietà, non seppe rispondere con un nuovo reciso rifiuto. Giunse le mani, si accostò a Lauriti e disse: a parte ogni ragione mia propria, Giulio, pensa alle relazioni mie, al mio modo di sentire, alle idee per cui io combatto. Io non potrei più domani trovarmi con i miei compagni in quest'opera depurazione che abbiamo intrapresa. S'accorse subito che non doveva dire così e tuttavia non seppe frenarsi, pur notando quasi con sgomento l'alterazione del volto del cugino a ogni parola che proferiva. Lo vidi alla fine scattare in piedi, stravolto. «Voi epurate, già!» esclamò Giulio Auriti con un ghigno orribile. Tu puoi epurare. Siete i puri voi altre. Noi, io, Roberto e anche mio padre, se vivesse. Giulio! Giulio! Cercò di richiamarlo Lando addolorato. Ma Auriti fuori di sé seguitò. Tutte quante sporcate, noi altri. E coglierei moneta falsa. Sì, e ruberei per avere queste 40.000 lire che tu hai e che io non ho. E perché non le ho? Sono uno sporcato. Tu le hai e sei puro. Ma pensa che mia madre non volle averle perché le parvero sporche. Lando si drizzò sulla persona e, fermo in mezzo alla stanza, squadrò il cugino con fredda alterezza. Il denaro mio, disse, e tu lo sai, è quello soltanto di mia madre. Ma anche dopo aver proferite queste parole, si pentì subito e atteggiò il volto di schifo per la crudezza triviale a cui la discussione trascendeva. Pensò in un attimo che, per un'iniqua disposizione, anche nella famiglia materna uno aveva scontato con la povertà la ribellione generosa. Pensò che fra le tante ragioni per cui nel fervore giovanile aveva voluto far sua Giannetta Montalto, egli aveva posto anche questa, di ridarle cioè almeno una parte di quanto era stato tolto al padre di lei diseredato. Previde che il cugino avrebbe risposto a quella sua altera e inconsulta affermazione trascinando ancor più in basso la contesa vergognosa. E difatti Giulia Auriti, scontorcendo il torbido volto, cozzando tra loro i pugni serrati e poi aprendoli innanzi agli occhi sfavillanti di un lustro di scherno, ghignò: «Ma anche il denaro di tua madre, ma via!» E Lando, di fronte alla provocazione, ancora una volta non seppe frenarsi. «Il denaro di mia madre?» domandò, facendogli sia avanti a petto. Giulio Auriti allora si passò una mano sulla fronte ghiaccia di sudore, si nascose gli occhi e s'accasciò dolorosamente. «E non me fare dire altro!» Lando rimase a guardarlo, o piuttosto a guardargli dentro. Poi disse con cruda freddezza, piano, tra i denti, quasi sibilando: «E anche ammesso ciò che tu pensi, vuoi che paghi io un debito contratto dal Selmi per lo spasso d'una donna che potrebbe avere da ridire sul denaro di mia madre? Ma va, va, va, ma per carità, vattene», proruppe poi, nascondendosi anche lui gli occhi. «Non posso più guardarti in faccia». Udì andar via il cugino e stette ancora a lungo con le mani sul volto, per il ribrezzo che sentiva d'aver toccato il fondo lurido di una realtà a cui non si sarebbe mai aspettato di poter discendere e dalla quale sempre gli sarebbe rimasta nell'anima l'impressione orrenda. Ora, risorgendo da quel fondo nel quale per un momento era scivolato, non gli sarebbe sembrato falso e vacuo e lercio tutto intorno? In ogni suo sentimento, in ogni idea, in ogni atto, in ogni parola, non sarebbe rimasto un segno, l'impronta di quel fango toccato? Con gli occhi strizzati, i denti serrati e le labbra schiuse, aride e amare, si stropicciò forte le mani. Poi aprì gli occhi, guardò la stanza, si sentì soffocare e andò a una finestra che dava sul giardino. Tutto, tutto così. Tutto era vergogna in quel momento. La peste era nell'aria, la carcassa sociale si sfaceva tutta, e anche la sua anima, ogni suo pensiero, ogni suo sentimento, tutto era insozzato. Giorni dopo, nella sala della biblioteca, erano adunati i compagni dove dovevano recarsi al congresso socialista di Reggio Emilia. I rappresentanti dei fasci più numerosi dell'isola, invitati da Lando, alcuni deputati amici, quattro milanesi del Partito Italiano dei Lavoratori e Lino Apes. Spiccava, tra tanti uomini, una giovinetta in giacchettino rosso e berretto nero a barca, con una penna di gallo ritta spavaldamente da un lato. Celsina Pigna, venuta, invece di Luca Lizio, a rappresentare il fascio di Girgenti. Nessuno voleva far le viste di meravigliarsene, ma ella s'accorgeva bene dei rapidi sguardi furtivi che tutti le lanciavano, in specie i meno giovani, e notava, ridendo dentro di sé, che quei pochi, i quali ostinatamente si vietavano di guardarla, prendevano per lei arie languide o fiere impostature, e per lei, parlando, davan certe modulazioni alla voce, chi flebili e chi vivaci, le quali tradivano tutte quel tale orgasmo che la presenza di una donna suscita di solito. Notava anche, in più di uno, un'altra ostentazione, quella di una disinvoltura quasi sprezzante che tradiva il disagio segreto di trovarsi in una casa ricca e ben messa. Lando Laurentano non c'era ancora. Lino Apes, a nome di lui, aveva pregato gli amici di avere un po' di pazienza, che presto sarebbe venuto. Nell'attesa s'erano formati alcuni crocchi. Due presso le finestre che davano sul giardino. Uno presso la tavola preparata in capo alla sala per chi doveva presiedere alla adunanza. Alcuni passeggiavano cogitabondi. Altri leggevano sul dorso delle rilegature i titoli dei libri negli scaffali, tendendo gli orecchi senza parere a ciò che si diceva in questo e in quel crocchio. Parecchi spiavano obliquamente uno dei deputati che, passeggiando per la sala con le dita inserte nei taschini del panciotto, alzava di tratto in tratto le spalle, protendeva il collo e, in segno di meraviglia e di commiserazione, stirava la bocca sotto i ruvidi baffi rossastri già mezzo scoloriti. Era il deputato repubblicano Spiridione Covazza, che in quei giorni aveva scritto male su una rassegna francese dell'organizzazione delle forze proletarie in Sicilia. Vedendosi sfuggito da tutti, con quel gesto pareva dicesse: «Incredibile!» Ma pur doveva sapere che il suo torto era quello di veder tante cose che gli altri non vedevano e di dare ad esse quel peso che gli altri ancora non sentivano, perché nel calore della passione ogni cosa par che si sollevi da chi la porta in sé. Illusioni, bolle di sapone che possono ad un tratto diventar palle di piombo. Lo sapevano bene quei poveri contadini massacrati a Caltavuturo. Aveva scritto su quella rassegna francese ciò che in coscienza credeva la verità, al solito suo, rudemente e crudamente. Ma quelli volevano dire che egli provasse un acre piacere nel mettere avanti così, fuor di tempo e di luogo, le verità più spiacevoli, nello spegnere col gelo delle sue argomentazioni ogni entusiasmo, ogni fiamma di idealità, a cui pur tuttavia era tratto irresistibilmente ad accostarsi. «Scaravaggio con ali di falena!» lo aveva definito sulla nuova età Lino Apes. Accostatosi alla fiamma spariva la falena e restava lo scaravaggio, calunnia e ingratitudine. Quell'accoglienza ostile, intanto, Spiridione Covazza sapeva di doverla soprattutto a tre giovani siciliani che erano nella sala, circondati in quel momento dalla fervida simpatia di tutti: Bixio Bruno, Cataldo Sclafani e Nicasio Ingrao, i quali più degli altri s'erano sentiti ferire dalla sua critica. Stava ciascun di essi in mezzo a tre crocchi che si erano formati nella sala. Bixio Bruno, svelto, dal volto olivastro animoso e i capelli crespi gremiti da negro, spiegava con fluida e colorita loquela, storcendo in un mezzo sorriso di soddisfazione la bocca rossa e carnuta, come in poco tempo fosse riuscito a raccogliere a Palermo in un sol fascio i 26 sodalizi operai, le maestranze di scordi, le cui bandiere smesse erano adesso conservate in una sala quali trofei di vittoria. Appariva pieno di fiducia e sicuro di quel trionfo. Si aspettava, credeva, anzi imminente, la reazione da parte del governo. Scioglimento dei fasci, arresti, invasione militare. Ma il buon seme era sparso. Ogni sopraffazione, ogni persecuzione avrebbe reso più grande la vittoria. Potevano essere tratti in arresto 300.000 uomini? No, i capi soltanto, qualche dozzina di soci, semmai. Bene, erano già pronti i capi segreti, ignorati ancora dalla polizia, e la propaganda avrebbe seguito più efficace che mai. Cataldo Sclafani, tarchiato, con gli occhi un po' strabi e un barbone che pareva un fascio di pruni, parlava nell'altro crocchio, profeticamente ispirato. Diceva con sorridente commozione che là, dove prima era spuntata l'alba dell'unità della patria, era fatale spuntasse ora quella più rossa e più fulgida della rivendicazione degli oppressi. Sapeva, sì, che già prima, nelle Romagne, nel Modenese, nelle province di Reggio Emilia e di Parma, nel Cremonese, nel Mantovano e nel Polesine, era sorto a far le prime armi il socialismo italiano. Ma tutt'altra cosa era adesso in Sicilia. Rivelazione improvvisa, prodigiosa. Lino Aspes, ascoltandolo, si tirava i baffi fino a strapparseli per tenere a freno il sorriso. Nelle sue lettere a Lando chiamava a Cataldo Sclafani il messia dei fasci. Nel terzo crocchio, Nicasio Ingrao, tozzo, rude, con una nera voglia di sangue che gli prendeva mezza faccia, parlava coi deputati, arrotando alla meglio il dialetto nativo e balzando con strana mimica da una sconcia bestemmia a un'ingenua invocazione infantile. Parlava della crisi dell'industria zolfiera in Sicilia e della spaventevole miseria dei zolfarai già da alcuni mesi in sciopero forzato. Nei tre crocchi tutti gli altri isolani, giovinotti dai 20 ai 30 anni, sentendo parlare quei tre capi più in vista, gonfiavano d'orgoglio. Si intenerivano fin quasi alle lacrime. Erano certi, nella loro sincera fatuità giovanile, di rappresentare una parte nuova nella storia. Pur lì, a Roma, avevano veduto davanti a quei tre duci del comitato centrale migliaia di donne, migliaia di contadini, intere popolazioni dell'isola in delirio, gettar fiori, prosternarsi con la faccia a terra, piangere e gridare come prima davanti alle immagini dei loro santi. Tutti si volsero a un tratto e si mossero verso Lando Laurentano che entrava di fretta. Chiedendo scusa del ritardo, strinse la mano ai primi che gli si fecero innanzi. Pregò tutti di prender posto e appena fu fatto silenzio, disse: «Ho perduto tempo, signori, per una ragione forse non estranea agli interessi nostri, agli interessi specialmente di tanti nostri compagni che più degli altri, credo, hanno bisogno in questo momento di aiuto giù in Sicilia». «I zolfarai!» gridò l'Ingrao balzando in piedi come se egli ne fosse il più legittimo difensore. «Ho capito!» aggiunse. «Vuoi dire che c'è qua l'ingegnere Aurelio Costa?» «Ho capito! Ha viaggiato con me questo signore. Abbiamo discorso a lungo e Lando con un gesto lo pregò di tacere. «L'ingegnere Aurelio Costa, appunto!» riprese. «Direttore delle zolfare del Salvo, che credo sia uno dei più ricchi proprietari di miniere della provincia di Girgenti, è venuto a Roma per interessare la deputazione siciliana a un disegno...» «È permesso!» interruppe di nuovo l'Ingrao. «Non perdiamo tempo, signori miei! Vi spiego io il fatto com'è. Il signor Salvo sta per imparentarsi per via di una sorella col principe di Laurentano!» Un mormorio di protesta si sciolse per il trattato ruvido dell'Ingrao verso Lando, a cui tutti gli occhi si volsero a chiedere scusa dello sgarbo. Ma Lando, sorridendo, s'affrettò a dire: «Non con me, vi prego, non con me!» E l'Ingrao allora, scrollandosi irosamente, gridò: «Madonna santissima, ma perché me prendete? Se dico il principe, avrei chiamato principe il nostro amico riverito, ospite e compagno amatissimo. Egli sa di non salire se lo chiamiamo principe, e sa che noi non vogliamo abbassarlo chiamandolo semplicemente Laurentano. Io alludo al principe suo padre, e Lando Laurentano non può offendersi delle parole mie. Se si offende, è sciocco. Parlo io invece di lui, perché egli sta a Roma, e io sto in mezzo alle solfare. E so che il progetto del signor Salvo non tende ad altro che ad ingraziarsi il figlio del principe, facendogli vedere che gli stanno a cuore le sorti degli operai delle zolfare. Bobole, panzane, polvere negli occhi. Sa meglio di me il signor Salvo che il suo progetto è una coglionatura, sì signori. Io parlo nudo, parlo così. Se veramente vuol fare qualche cosa, tolga il signor Salvo dalle zolfare di sua proprietà le cosiddette botteghe, dove gli operai sono costretti a provvedersi con l'usura del 100% dei generi di prima necessità. Vino che è aceto, pane che è pietra. Spiridione Covazza domandò allora di parlare e tutti si voltarono con viso ostile a guardarlo. «E volete adesso difendere le botteghe?» lo apostrofò l'Ingrao. Ma il Covazza non si voltò nemmeno. «Vorrei sapere», disse piano, «le idee generali di questo disegno». «Vedeco che è una coglionatura!» tornò a gridare l'ingrao. Il Kovacs tese una mano, senza scomporsi. «Prego», disse, «urlare non è ragionare. Sono stato anche io nelle zolfare, ho studiato attentamente le condizioni dell'industria zolfiera, le ragioni complesse della sua crisi, e vi so dire che nelle condizioni presenti quelli che hanno da sperar meno sono proprio i zolfarai, picconieri e carusi, e non meno tristi sono però le sorti dei coltivatori, delle miniere e dei proprietari. E se questo disegno... ma non poté seguitare. Tutti i rappresentanti dei fasci scattarono in piedi protestando. Lando si interpose, cercò di calmarli, ammonì che si avesse rispetto per le opinioni altrui e propose che uno fosse subito chiamato a dirigere la discussione. «Bruno, Bruno! Bixio Bruno!» si gridò da varie parti. E Bixio Bruno, avvezzo ormai a vedersi designato a quell'ufficio, in due salti fu alla tavola preparata in capo alla sala. «Signori», disse, «di straforo, incidentalmente siamo entrati nel piano della discussione. L'onorevole Covazza, in un suo scritto recente...» «Pubblicato all'estero!» interruppe uno in fondo alla sala. «E all'estero e in Italia sciocchezze!» ribatté il Bruno. «Le nostre idee, il nostro partito, non conoscono confini di nazionalità. In questo scritto l'onorevole Covazza ha criticato l'opera mia e dei miei compagni.» Spiridione Covazza, con le braccia incrociate sul petto, negò più volte con il capo. «No?» domandò il Bruno. «E come no? Non ha detto che la nostra propaganda è fatta di miraggi?» «Io ho detto», rispose il Covazza levandosi in piedi, «che le vostre dimostrazioni oneste di una libertà che dia intero realmente il diritto di soddisfare ai bisogni della vita, le spiegazioni che voi date della lotta di classe sfruttati contro sfruttatori e del programma della scuola marxista in genere e di quello minimo che vi siete tracciato, si traducono inevitabilmente e sciaguratamente in miraggi per la ignoranza di coloro a cui sono rivolte. Questo ho detto. E ho anche aggiunto...» Ma nuove proteste confuse si levarono nella sala. Il Bruno batté il pugno sulla tavola e impose il silenzio. «Lasciatelo parlare! Ho soggiunto...» riprese il Covazza. «Che voi, abbagliati nel fervore della vostra sincera fede giovanile, credete che le vostre dimostrazioni e spiegazioni siano veramente comprese?» Lo sono! Gridarono molti a coro. «No! Non lo sono! Non lo possono essere! Negò energicamente il Covazza. «E come volete che lo siano, se non le comprendete bene neanche voi stessi?»